Sospirando, Talento Coraggioso aprì le tende della sua portantina. Erano passati attraverso le porte della città ed erano ora su uno dei vari sentieri che serpeggiavano per i poderi di proprietà della casa dei Chang. Dalle risaie su entrambi i lati fluiva fango marrone in questa stagione dell'anno, durante la semina. Il sole di mezzogiorno era emerso dalle nuvole, riscaldando l'aria e invitando i contadini a tornarsene a casa dai campi per una ciotola di zuppa. Al passare della sua portantina si tiravano da parte e si inchinavano profondamente. Lui rispondeva con un cenno del capo e un sorriso. I contadini erano sempre rispettosi e per lo più silenziosi in sua presenza. Persino il fittavolo lì, che era sempre favorevole alle sue innovazioni, non parlava granché. Rideva e si grattava la testa e si inchinava, facendo un suggerimento solo raramente, ma quando gli altri videro che nessuno spettro infelice assillava lì dopo che era stata installata la pompa meccanica nel campo vicino alla tomba dei suoi antenati, anch'essi vollero usare l'aggeggio. Alcune settimane prima, lui e il fittavolo avevano iniziato uno sforzo comune per riparare gli argini sgretolati che i funzionari corrotti avevano trascurato. Come aveva fatto fin dall'inizio, il clan a malincuore lo accontentò e pagò gli utensili e il materiale. E lì fornì gli uomini. Con gli argini riparati e la nuova pompa funzionante, a primavera i campi sarebbero stati ricchi di germogli di riso e ciascuna fila ben irrigata avrebbe avuto un colore verde smagliante. Quando la portantina oscillò in curva verso la capanna di lì, il suono di una voce risvegliò Talento Coraggioso da quelle soddisfacenti fantasticherie. Madre, madre, l'onorato padrone è arrivato! L'onorato padrone è arrivato! Sembrava provenire da sotto la sua portantina. Sporgendosi, individuò il bambino che agitava le braccia e correva di lato, il codino svolazzante. Era Spirito Risoluto, il figlio di Lee, che aveva 4 anni. Quando scese a terra, il bambino era scomparso oltre l'angolo della casa dove i Lee erano raccolti in gruppo per dargli il benvenuto. Come una trapunta a riquadri di un blu stinto con macchie di rosso costituite dai bambini piccoli. Si inchinarono fino alla vita. L'imbottitura di paglia fra i vari strati protettivi scricchiolò. Benvenuto, padrone, non meritiamo un simile onore. Buongiorno, amici miei. Avete mangiato oggi? Noi stiamo bene, padrone, risposero all'unisono inchinandosi di nuovo. Avete mangiato oggi? Anch'io sto bene, grazie. La nonna sdentata allora si fece avanti e gli offrì una ciotola di acqua calda, mentre i due zii pelle e ossa si contendevano a gomitate l'onore di portargli lo sgabello e di collocarlo all'ombra del muro. Mentre il patriarca beveva, i lì sorridevano e annuivano in segno di approvazione. Improvvisamente, da dietro la casa apparve in un turbine di polvere Spirito Risoluto, tirandosi dietro un maialino nero attaccato a una corda. Il bambino era già più alto dei suoi due fratelli maggiori, benché portasse ancora alle orecchie i sottili cerchietti d'oro di sua madre, per ingannare gli dei gelosi e fargli credere che era solo una bambina e non meritava il loro interesse. Intorno al collo aveva appesi gli amuleti per tenere lontana la malattia che per poco non l'aveva ucciso diverse settimane prima. Guarda, onorato padrone, guarda com'è cresciuto, grosso prosciutto. Certo, questo maialino è degno di un imperatore. Talento Coraggioso inclinò il capo con appropriata gravità. Spirito Risoluto, il bambino avrebbe aggiunto qualcosa, ma la sua robusta madre rapidamente sollevò più in alto il piccolo addormentato sulla sua schiena e si fece avanti per afferrarlo. Suo figlio doveva stare al suo posto. Per favore, non portare via il bambino, protestò Talento Coraggioso. La sua compagnia mi fa piacere. Spirito Risoluto prese un'aria di trionfo e il clan scoppiò a ridere, ma poi si chiuse in un silenzio imbarazzato. La madre lo interruppe, inchinandosi. Il mio stupido terzo figlio impedisce a chiunque di avvicinarsi al maiale, lo nutre con la mano e gli lava le zampe come se fossero quelle di Buddha. Onorato padrone, Spirito Risoluto si inchinò solennemente, profondamente. Talento Coraggioso fece uno sforzo per non ridere alla vista del sederino nudo del bambino, che fece capolino attraverso un buco nei pantaloni. Voglio che prosciutto abbia un buon sapore, padrone. E puoi essere certo che io pagherò un prezzo speciale per il suo sapore speciale. Oh no, signore! Il bambino scosse energicamente la testa che il codino gli cadde sulla faccia. Prosciutto è un dono. Un dono per me? Tutti annuirono. Se non fosse stato per voi, onorato padrone, disse la nonna, spirito risoluto sarebbe già dai suoi antenati. Oh, ma non è stato nulla, era il minimo che potessi fare. La madre si asciugò le lacrime che invariabilmente le sgorgavano dagli occhi al ricordo di come era stato malato il suo figlio prediletto. Potevate andarvene via, padrone, quando ho litigato con voi. Pensavo che l'ospedale straniero fosse un luogo cattivo. Non vi credetti quando diceste che non avrebbero preso il mio bambino per venderlo. Potrete mai perdonare questa donna ignorante? E cadde in ginocchio. Oh, ti prego, alzati, non c'è nulla da perdonare. Così la conversazione rituale terminò. Talento coraggioso si alzò e chiese del contadino lì. Mio marito non è qui, si è ammalato ed è andato subito a quell'ospedale. Quando? Si scambiarono delle occhiate. Secondo un vecchio zio era successo il giorno della luna piena, secondo la moglie invece alcuni giorni prima. Tutti erano sicuri che sarebbe tornato presto, completamente guarito, e annuirono energicamente. La loro fede, acquisita di recente ma assoluta nei poteri magici dell'ospedale della missione, costernò Talento Coraggioso. Si congedò rapidamente e, quando fu sicuro che non lo potessero udire, ordinò ai portatori di accompagnarlo là. Costruito in parte con fondi che dietro sua insistenza erano stati offerti dal tesoro dei Chang, l'ospedale era un piccolo edificio di mattoni a due piani. Sembrava che qualche vento zelante lo avesse raccolto da New Haven, nel Connecticut, e depositato per uno strano caso a Shuqiao. L'unica concessione al passaggio circostante era l'alto muro che lo recintava. Invece di un muro contro gli spiriti, c'era sull'entrata una targa di legno con un'iscrizione in inglese e in cinese: Ospedale maschile della missione di Shuqiao. Congedando con un gesto il capo portatore all'ingresso, Talento Coraggioso percorse a grandi passi il corridoio, schivando parenti preoccupati che erano venuti a portare cibi speciali proibiti ai pazienti e che se ne stavano rannicchiati lungo le pareti, gemendo e litigando col personale. Ebbe una smorfia di disgusto all'odore di malattie e di disinfettanti mescolato a quello di brodi vegetali di zuppa di pollo. La missionaria dai capelli grigi, che fungeva da receptionist, traduttrice e direttrice, lo indirizzò a una stanza del piano di sopra, la numero 16. La porta era aperta. Il contadino lì giaceva appoggiato ai cuscini in un lettino. La sua robusta struttura, che solo 2 settimane prima era stata piena di vitalità, sembrava svuotata e fragile, e la sua faccia aveva il colore della pula secca. Aveva le palpebre contratte e dal profondo del suo corpo salivano gemiti bassi, intermittenti. Talento Coraggioso si avvicinò lentamente all'ammalato. La minuscola stanza era affollata di spiriti che volteggiavano nell'aria, così che involontariamente sussurrò: «Vecchio amico, sono io, il patriarca. Stai male? Puoi parlare?» Con un grande sforzo gli occhi si aprirono e lo misero a fuoco, e l'ombra di un sorriso affiorò sulle labbra secche. «Padrone!» Talento Coraggioso si chinò su di lui. «Non ti preoccupare, parlerò col dottore. Avrai le migliori cure, te lo prometto.» Sì, grazie. Improvvisamente il respiro di lì si fece più affannoso e difficile, e ogni volta i gemiti si facevano più forti. Talento Coraggioso si voltò per andarsene. Doveva trovare aiuto. Restate, vi prego. Sì, certo. Il contadino, che non temeva gli spiriti sui suoi campi, aveva paura di restare solo. Sì, certo, resterò. Talento Coraggioso prese un fazzoletto dalla manica e si chinò per asciugare la fronte del malato. Poi esitò. Il sudore gocciolava dal codino di lì sul pavimento. Doveva esservi pure un inserviente, qualcuno per alleviargli la pena. Mettendosi invece il fazzoletto sulle labbra, Talento Coraggioso si allontanò in gran fretta a cercare aiuto. Vide il medico arrivare dalle scale. Dottore, dottore, dovete venire, lì sta male. Sì, lo so. L'uomo si fermò per riprendere fiato. Il suo sguardo incrociò quello di Talento Coraggioso. Non potete fare qualcosa? Noi... Il medico scosse la testa. Quell'uomo è venuto troppo tardi. All'ora del gallo, il contadino lì morì. La sera seguente, il suo figlio minore venne nei cortili per vendere il suo maialino nero, troppo piccolo per avere un qualsiasi valore. Il patriarca gli offrì una somma cospicua e il denaro servì per il funerale. Al ritorno dal funerale, il nuovo portatore, camminando con gli occhi fissi su un paio di pantaloni stesi sulla testa, inciampò in un sasso e si ruppe una gamba. 3. Scarpe alate. Mia nipote, che ha 6 anni, è chiamata signorina Tartaruga. Mia figlia, che ne ha 3, piccolo abito d'estate. Una sta imparando a scherzare e parlare, l'altra recita sempre poesie e canzoni. Il mattino mi giocano intorno, la notte dormono rannicchiate contro di me. Perché, bambine, siete venute così tardi al mondo, quando i miei anni sono trascorsi? I piccoli attirano i nostri sentimenti, i vecchi facilmente danno il loro cuore, i frutti più dolci alla fine diventano amari. Anche la luna piena pian piano si spegne. E così, negli uomini, i vincoli dell'amore e dell'affetto presto possono mutarsi in un fardello di dolore e preoccupazioni, ma tutto il mondo è legato dai vincoli d'amore, perché io sola ho creduto di potermi sottrarre. Po Chu Yi, dinastia Tang. Alcune settimane dopo la morte del contadino Li, mentre il sole superava lo zenith, Talento Coraggioso sedeva su uno sgabello accanto allo stagno nel giardino del flauto pensoso. Era il 40° anniversario delle doglie di sua madre e tutto il giorno si era sentito intrappolato nella rete del cielo. Ora i suoi occhi seguivano una delle carpe dorate che schizzavano da una ninfea all'altra guizzanti sagome di seta. Perlomeno, pensava, gli erano risparmiati gli auguri che la gente riteneva opportuno formulare in un simile giorno in America. In Cina i compleanni si celebravano il 7° giorno della prima luna, un'usanza molto civile. Oppure no? Scosse la testa, non sapeva più. Nulla sembrava più in armonia da quando era morto il contadino Li. Lettere dei suoi amici progressisti, tra virgolette, erano ammucchiate sulla sua scrivania in attesa di una risposta, ma lui non aveva più nulla da dire in merito alle loro richieste di sostegno e incoraggiamento. Il mattino del funerale di Lee la pompa si era gelata. Più tardi, al termine delle cerimonie, non era nemmeno riuscito a persuadere un vicino di Lee a portare sua figlia all'ospedale, anche se tutti potevano vedere che la sua gamba era già nera, marcia di cancrena. Il ragionamento dell'uomo era molto logico. Ditemi un po', chi prenderebbe mai una moglie con una sola gamba? Meglio che vada al di là delle sorgenti gialle piuttosto che condurre una vita da mendicante. Non disse che il medico straniero e le riforme del patriarca non erano stati d'aiuto al contadino Lee, ma comunque era ciò che pensava. Ora anche la ragazza era sottoterra. Da quando se n'era andata, Talento Coraggioso aveva letto e riletto la lettera di Shen Chu-Lien alla figlia morta, perché l'aveva imparata a memoria. Le parole lo ossessionavano. Quando vedrai il giudice del mondo inferiore, congiungi le mani e supplicalo. Sono giovane e innocente, sono nata in una povera famiglia e mi accontentavo di miseri pasti. Non ho mai sprecato un solo granello di riso e non sono mai stata trascurata dai miei, nei vestiti e nelle scarpe. Ora sto componendo queste parole, ma tu non sai ancora leggere. Non posso far altro che piangerti e chiamarti per nome. Parole tracciate 300 anni prima, ma ancora vive, tanti piccoli spettri. Improvvisamente vi fu un fievole suono. Alzò gli occhi, sorpreso, lo udì di nuovo, più forte questa volta, ma sempre sommesso. Oh, oh! Da dove veniva? Si guardò intorno, non c'era nessuno. Oh, oh! Chi chiama? Io. Chi è io? Domandò con voce sospettosa, severa. Luna di primavera, fece lei, sbirciandolo da dietro la piccola montagna. Per poco non mi hai spaventato. E se fossi caduto nello stagno? Sarei scappata via. E allora mi avresti lasciato annegare? Beh, non avete forse portato dall'America i magici pantaloni a vapore, che vi avrebbero risospinto a riva? Ribatté, ridendo di lui. Lui scosse la testa, incapace di prendersela per quella impertinenza. Diverse volte l'aveva trovata nel giardino del cipresso, appollaiata sulla panchina di pietra accanto al muro della scuola. Ieri doveva averlo ascoltato mentre inventava una storia per spiegare una questione di matematica, la materia che nessun altro voleva insegnare. gli offrì una manciata di briciole e insieme nutrirono i pesci. Che gioia emana da sé, pensò, così diversa ora da quella creatura dagli occhi tristi che aveva trovato subito dopo il suo ritorno dall'America, così diversa dalle altre bambine della sua età, che erano ritratti in miniatura delle loro madri e delle loro zie. L'una di primavera era pura gioia, e come la gioia, evanescente. Guardate, zio, lo tirò per una manica, poi indicò lo stagno, quello con gli occhi sporgenti, l'ho chiamato zio anziano, come voi. Perché? Perché? Spazzò via le ultime briciole dalle mani e si voltò a guardarlo in faccia. Non vi farà piacere, lo avvertì. Certo che no, altrimenti non lo avresti fatto. Beh, gli si avvicinò la bimba. Ogni volta che arriva un altro pesce, quello scappa via a nascondersi. Quando non c'è nessuno, scivola fuori e nuota tutto solo, scuotendo la testa, proprio come voi. Il patriarca rise di cuore. Era vero, apprezzava la compagnia della bambina più di quella di ogni altro parente, anche se le loro strade non si incrociavano spesso. Fino alla morte del contadino, lui era stato assorbito dalle sue riforme e lei da tutte quelle cose che fanno le bambine. Ricamare per il suo corredo, immaginava lui, benché dubitasse che l'una di primavera si piegasse di buon grado a quel compito. Posso venire più tardi a prendere in prestito il libro illustrato? Quello con le macchine a vapore? Lei annuì energicamente. Perché ti interessa più degli altri? Non doveva aver sentito la domanda perché chiese se il vapore può far andare le barche di quel libro, zio anziano, e le macchine che vanno sulle rotaie. Perché non potrebbe servire a farmi delle scarpe alate che mi permettano di camminare senza avere male ai piedi? Lui guardò i suoi gigli dorati. Ti tormentano ancora? Non molto, a dire il vero, quasi mai. Non sono più una bambina, sai? Si raddrizzò e lo guardò con aria grave, come sfidandolo, e lui non poté fare altro che annuire. Improvvisamente lei si ricordò di qualcos'altro. Zio anziano? Sì? Secondo la nonna, i pali del telegrafo graffiano il dorso del drago e lo mandano in collera, al punto da rovinare i raccolti. Ma io sono d'accordo con voi, penso che anche noi dovremmo costruirci un telegrafo. E come? Chiese lui, sinceramente incuriosito. Beh, io potrei legare un cordoncino al vostro capezzale e tirarlo finché raggiunge il mio. Poi voi comprereste due campane piccole da legare a ciascun capo. E la notte, quando vengono gli spiriti, io potrei tirare il cordoncino e voi fare altrettanto, e le campanelline suonerebbero cacciandoli via. Non sarebbe più semplice svegliare la tua schiava? Di colpo l'espressione del suo volto cambiò totalmente, come se si fosse messa una maschera di legno. Scosse lentamente la testa. Perché? Lei si strinse nelle spalle. Perché? Perché non ho una schiava. Nessuno vuole fastidi, è così? Disse il patriarca. No, la sua voce era quasi un sussurro. Avrei potuto scegliere chi volevo, l'ha detto mia madre, ma quelle che sono venute da me le ho mandate via. Ho detto a tutti che non volevo una schiava, né ora né mai. Lui chiese con dolcezza: È successo qualcosa l'una di primavera? Lei rimase zitta per un po' con gli occhi bassi. Lui non insistette, non era tanto piccola da non avere pensieri personali. Infine alzò gli occhi e disse: Qualcosa è successo prima del vostro ritorno. La mia fiore di prugno è morta nel giardino del cipresso. E nessuno potrà mai prendere il suo posto, nessuno. Preferisco avere paura di notte che lasciare entrare qualcun'altra nel suo letto. Talento sincero non gli aveva detto che la schiava morta era affidata all'una di primavera. Sono sinceramente dispiaciuto, deve essere stato molto triste per te. Lei annuì appena a fatica. Lui le prese una mano fra le sue e la tenne stretta. Non pensarci più, è successo tanto tempo fa. Ma io non potrò mai dimenticarla. No, hai ragione, non devi. Doveva essersi ribellata come una tigre per sconfiggere sua madre e la matriarca. Lui sentiva di doverle dire qualcosa. Era troppo giovane per essere ossessionata dagli spettri. Sono giovane e innocente. Sono nata. E improvvisamente trovò la risposta. Luna di primavera. Lei alzò gli occhi. Ti piacerebbe imparare a leggere e a scrivere? Oh, potrei! Naturalmente. Ma i ragazzi riderebbero di me e il tutore se ne andrebbe di nuovo. No, fece lui, ti insegnerò io. E che dirà la nonna? Oh, per quello non devi preoccuparti. Ma sono io il patriarca, non è vero? Assunse la posa più formale come un ritratto di antenato. Lei saltò in piedi e si inchinò solennemente. Poi, con la testa leggermente piegata di lato, gli occhi danzanti, disse: Oh, zio anziano, anche voi siete fonte di guai. Così cominciò. Ogni mattina, dopo le sue visite agli anziani e la colazione, Luna di Primavera andava nello studio dello zio Talento Coraggioso, dove erano stati collocati una tavola e uno sgabello fra le due vetrine di porcellane Ming. Lì lavorava sui nuovi caratteri e leggeva mentre lui sbrigava la corrispondenza. Ogni pomeriggio prendevano il tè insieme, allora lui rispondeva a ogni suo quesito e le spiegava la lezione per il giorno dopo. Era affascinato dalla sua intelligenza. Nel giro di un mese fu in grado di leggere e scrivere testi semplici e, a differenza dei ragazzi, capiva quel che imparava. Naturalmente la famiglia ne fu scandalizzata. Troppa istruzione per una ragazza è pericolosa e poi diminuisce le sue probabilità di un buon matrimonio. Le donne colte sono persone insoddisfatte che disturbano la virtuosa armonia della famiglia. Le ragazze devono stare nei cortili interni con le madri ad apprendere l'arte di governare una casa. La matriarca era insistente. Non hai nessun riguardo per il futuro di mia nipote? Prima infastidiva tutti con i suoi perché. Se continua con questa assurdità, com'è vero che la dea Quanina misericordiosa oserà fare di tutto? Talento Coraggioso capiva le loro paure, ma non voleva saperne di piegarsi. Anche dopo che fu terminato il periodo di lutto, Luna di Primavera continuò a studiare. Era il suo unico successo, la sua unica speranza. 4. Il soldato. Nel mondo di oggi, che posizione occupiamo? In confronto agli altri popoli abbiamo la popolazione più numerosa e la nostra civiltà è antica di 4.000 anni. Perciò dovremmo essere al primo posto insieme alle nazioni d'Europa e d'America. Ma il popolo cinese conosce soltanto la solidarietà della famiglia e del clan, non ha uno spirito nazionale. Perciò, anche se 400 milioni di persone sono raccolte in una sola Cina, in realtà non sono che una manciata di sabbia. Oggi siamo la più debole e povera nazione del mondo e occupiamo la posizione più bassa nel quadro internazionale. Altri uomini sono il piatto di portata e il coltello da scalco, e noi siamo il pesce e la carne. Sun Yat-sen. Gli ultimi raggi di sole si aggrappavano agli orli estremi del Pohai, mentre Talento Nobile, il terzo figlio, camminava verso il mare. Il vento del nord-ovest ululava e lungo la spiaggia le gigantesche reti da pesca guizzavano e sbattevano come le grigie trecce aggrovigliate di una strega senza volto. Qua e là gli uomini lavoravano, grattando via i cirripedi dal fondo delle barche, portando sul dorso ceste di pesci o di legni verso i ripari di paglia intrecciata, dove bambini, vestiti di stracci, si riscaldavano le mani ai fuochi crepitanti. Camminava, incurante del vento, e non si fermò all'orlo dell'acqua, ma si inoltrò subito fra le onde verso la marea, finché l'acqua della baia gli lambì l'orlo degli stivali. La marmaglia si radunò alle sue spalle, ne sentiva gli urli fra i gemiti dei gabbiani che volavano alto. Lai, lai, un pazzo in acqua, presto prima che muoia! Gridò un ragazzotto. Chi è? Che stai facendo? Ehi, tu! Improvvisamente la voce di un uomo. Lo conosco, è dell'Accademia Militare, vedete? Ha gli stivali di cuoio. Proprio come i diavoli stranieri che insegnano là. Che razza di scimmie sono questi studenti dei barbari? Si levò un selvaggio coro di approvazione. Ehi, te lo hanno detto i diavoli stranieri di farlo per diventare Ping? Un soldato? La folla lo scherniva. Cane idiota, stai nell'acqua gelata per diventare Ping? Ghiaccio? Gli spettatori si sbellicavano dalle risa. Tua madre non ti ha mai spiegato la differenza fra un soldato e un ghiacciolo? Ping, Ping, soldato di ghiaccio, soldato di ghiaccio! Talento Nobile non poteva più fingere di non sentire e si girò. Un soldato manciù camminava impettito davanti ai bambini che, strabuzzando gli occhi, si schiaffeggiavano come fanno i pazzi. Gli altri, stringendosi l'uno all'altro contro il vento, si soffiavano nelle mani per riscaldarsi, stando a guardare. Per la prima volta da che ricordava, aveva perso il controllo. Era come se quell'eccesso dentro di lui, che aveva sempre combattuto, fosse cresciuto come una vipera nelle sue viscere, troppo pericoloso per assimilarlo. E lui non avesse altra scelta se non sputarlo fuori, con solo il vento e quelle marmaglie come testimoni. Andatevene! Urlò. Lasciatemi in pace. Sono qui per onorare i patrioti che hanno combattuto e sono morti in mare, per dire addio ai miei amici. Fra qualche minuto me ne andrò. Vide che le sue parole facevano effetto, ma non si sentì vittorioso. Senza autocontrollo, chi comanda è senza virtù, così come lo è il pazzo che egli sembrava essere ai loro occhi, e tuttavia. Il soldato Manciù, che forse aveva perso anche lui dei compagni, smise di sbeffeggiarlo e con un gesto disperse gli altri. Andatevene ora, via, via, non c'è nulla da vedere. I bambini indugiarono un istante, come se non potessero credere che il gioco era finito. Poi anche loro se ne andarono marciando uno dopo l'altro, facendo oscillare le braccia, lasciando un'unica scia di orme sulla sabbia. Quando il buio li ebbe inghiottiti, Talento Nobile si voltò di nuovo e rimase a fissare il mare. I lembi dei frangenti, che sbattevano e turbinavano ai suoi piedi, erano come ghiaccio, ma quel freddo gli era gradito. Annebbiava i sensi, mascherando la vergogna, la furia, poiché lui era giunto troppo tardi, proprio come il padre di sua madre. O così si mormorava. Durante tutti quei mesi di attesa, aveva immaginato che lui, uno dei pochi addestrati a combattere una guerra moderna, avrebbe dato un importante contributo. Altri avrebbero scagliato frecce contro scafi e creduto di fermare le palle di cannone con bastoni di bambù. Lui era un maestro di balistica e strategia navale, sputò sprezzante in acqua. Che differenza faceva ora il suo addestramento? Quel mattino, quando si era presentato, la base era quasi deserta, i suoi compagni erano morti in battaglia o stavano riprendendosi dalle ferite. Non era rimasta una sola nave. Neppure una su cui potesse aiutare ad addestrare i marinai per un'altra guerra. Il pesce spada aveva trafitto la balena. Il regno di mezzo era morto. 3 anni, 3 anni sprecati. La sua voce era rauca. Va a casa e aspetta, gli avevano detto i suoi superiori. Va a casa e aspetta con gli altri. Aspetta un anno, forse due, aspetta che altre navi vengano costruite nei bacini di Gran Bretagna e Germania, aspetta che l'imperatrice vedova completi il suo palazzo d'estate e la barca di marmo e siano di nuovo disponibili dei fondi per i militari, aspetta che cambino idea i Manciù e gli eunuchi al potere che hanno ingannato e corrotto la corte, infilandosi nelle maniche le bustarelle e le tasse estorte alla gente. Forse allora ci saranno adeguate scorte e non più pallottole di cartapesta nei depositi di munizioni. Aspettare un altro anno o due. Gettò indietro la testa e uscì in una risata feroce. No, era già stato abbastanza sciocco, non avrebbe atteso per sempre. Chiuse gli occhi, rivedendo le due corazzate che avevano scintillato nel porto, rovinate in fondo all'oceano. Le membra sparpagliate del suo capitano e dei suoi compagni a marcire sotto le acque mute. Cinesi sventrati sepolti in una fossa comune, mentre i viventi si inchinavano a un nano marrone. No, non avrebbe aspettato. Stringendo a pugno la mano destra, la levò in alto, serrata, come per imprigionare nella sua morsa la vipera che lo tormentava, e urlò la sua promessa. Aveva una voce rotta. Ascoltate, compagni morti. Voi che siete periti nella baia coreana, quando la vostra nave trasporto fu affondata dai giapponesi ancor prima che la guerra fosse dichiarata, ascoltate, compagni morti, voi che siete periti a Yashin, Pyongyang, Chenwan e Seul assassinati dall'esercito giapponese. Ascoltate, compagni morti. Voi che siete periti nella battaglia navale di Yalu, ascoltate, compagni morti, voi che siete periti a Port Arthur e a Wei Awei, Hancheng e Kaiping. Io vi prometto con tutto il cuore che le vostre morti saranno vendicate. La Cina sarà libera e forte. Io dedicherò la mia vita alla causa per cui voi avete combattuto e perso la vita. Ascoltate il mio voto, compagni morti, e riposate in pace. Rimase lì fermo, ancora per un attimo, poi sollevò i piedi dalla sabbia e lentamente si fece strada, attraverso l'acqua, verso la riva. Avanzò faticosamente, poi, appena poté, corse. Durante gli 8 giorni del suo viaggio di ritorno a Shuqiao, si ripeté continuamente il discorso che avrebbe fatto appena giunto a casa.